La sintesi sonora è il processo attraverso il quale viene generato del suono da una rete di uno o più circuiti digitali o analogici. Un processo chiamato Digital Sound Synthesis può essere utilizzato per produrre suoni attraverso un computer. Il computer è programmato per generare numeri o valori che descrivono la pressione acustica del suono desiderato. In questo primo stacco ascolteremo